conversazioni intorno all'attualità della vita nei luoghi del festival. Buonasera, bentornate e bentornati a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici sulla Radio Live. Io, Silvio, Giovanni, io che sono Silvio, non io, virgola Silvio, io che sono Silvio e Giovanni, siamo in questo momento all'Hotel San Giovanni, San Giuliano, ma perdonatemi, di Accettura, dove abbiamo appena incontrato Antonio De Bona, che è qui con noi davanti a un tavolo. E Antonio è stato molti anni forestale, per pochi anni carabiniere quando il corpo è stato riassorbito, ora si definisce pensionato non troppo facoltoso, diciamo, ha scritto un libro sull'alberologia e ci stava a noi che siamo proprio appena arrivati e sappiamo poco di questi posti, introducendo un po' alla Lucania e alla sua storia, che ci diceva derivare dal termine lucus, cioè bosco, insomma. Sì. Ci stava dicendo che ci sono alcune cose che dobbiamo assolutamente sapere sulla Lucania. Antonio. Allora, dovete sapere sulla Lucania, oltre a tutto quello che avviene per quanto riguarda il bosco, quindi gli alberi, avete visto e avete visitato il Museo dei Culti Arborei, quindi sapete già che in Lucania vi sono 12 o 13 riti simili, per cui qui in Lucania portano gli alberi in processione. Ho dato all'ara dei DVD per far vedere che cosa avviene in primavera in Lucania, in particolare quello che avviene ad Accettura, che è passato come matrimonio degli alberi, ma matrimonio tanto non è, perché si parla di un culto. Su alberologia io ho parlato di dendrolatria, cioè questo culto esasperato rivolto verso l'albero, verso gli alberi. Ma non sono soltanto gli alberi i veri protagonisti della festa, sono gli uomini e la musica e tutto quanto che gira intorno a questo grandissimo evento che è la festa di San Giuliano. Ma dovete sapere che ad Accettura, oltre a questa festa particolarissima degli alberi e questi culti arborei, vi sono degli scorci e vi sono delle pietre che fungono da calendari. Se vedete un po' su internet c'è qualche cosa riguardante Pietra della Mola, dove sul territorio di Accettura, o meglio nella foresta, nel cuore della foresta di Gallipoli, nel cuore del parco, vi è una riserva antropologica. Una delle pochissime che ce ne sono in Italia, vi è una Stonehenge lucana. Praticamente vi sono delle pietre dove il sole, in dei momenti particolari dell'anno, attraversa, prima di tramontare, attraversa questo foro, e questi antichi capivano che era il giorno più corto dell'anno, quindi era il solstizio d'inverno. Ma in altri momenti, negli equinozi e nell'altro solstizio d'estate, e passando attraverso i due equinozi, quello di primavera e quello d'autunno, ci sono dei menhir in Basilicata e nel territorio di Accettura, dove questo fenomeno, questi popoli, non avendo il telefonino, non avendo i calendari, non avendo le loro agende, programmavano le loro attività agricole in base a questi momenti dell'anno, quindi capivano che adesso inizia la primavera, adesso inizia l'estate, adesso inizia l'autunno, adesso inizierà l'inverno. Mi dispiace per voi non farvi vedere questo posto, ma è qualcosa di straordinario, posso farvi vedere delle foto, ma ve le potete cercare tranquillamente su internet e potete approfondire meglio ancora. Oltre a questo, c'è da vedere in Lucania il volo dell'angelo a Pietra Pertose, a Castelmezzano, che forse non è menzionato nel vostro programma. Pietra Pertosa sì. Pietra Pertosa sì, c'è. Dalla parte opposta c'è Castelmezzano e quindi vi potete vedere questi luoghi fantastici. Castelmezzano è uno dei borghi più belli d'Italia. E oltre a questo, che cosa segnalare? Aliano, il paese dove è stato Carlo Levi, e che più c'era? Campo Maggiore con la città dell'utopia, insomma c'è da, tanto da vedere. Campo Maggiore è dove dormiamo questi dove giorni, dormite siamo voi? Alloggiati. Avete visto questo vecchio paesello, questa città dell'utopia? Non l'avete, conoscete? Avete visitato? Conosciamo la storia. È conosciuto perché abbiamo già incontrato molte persone e vi hanno già parlato di questo. Nei prossimi giorni siamo in spedizione per la scoperta della città dell'utopia. Bene, allora se volete possiamo tranquillamente parlare di Accettura, visto sì, che volentieri, anche qui. Del suo libro Alberologia, che tra l'altro è stato pubblicato nel 2015, mi pare, nel 2015, sto lavorando alla seconda edizione, perché ho tralasciato alcune cose, mi sono accorto successivamente di queste fallanze che c'erano e ho dovuto integrarle e lo sto facendo. Da questo alberologia, questo discorso generico sugli alberi, perché è stato gioco forza parlare di alberi, visto che ho lavorato per tanto tempo a contatto con gli alberi e nei boschi, e poi nella parte finale ho descritto quello che avviene, quello che stavamo appunto dicendo, di questi riti, di questi momenti che gli uomini e le donne di Accettura, in questo particolare momento dell'anno, in primavera, vanno in foresta e vanno a prendere quest'albero, lo tagliano, quindi ne provocano la morte, lo uccidono e lo trasportano a spalla qui in città. In un altro bosco a Montepiano tagliano un altro albero, e questo è grandissimo, è lungo una trentina di metri, lo trascinano con dei buoi, lo portano in città, questi due alberi li uniscono fra di loro e lo viene eretto proprio lì nella piazzetta principale, nella piazza principale di Accettura. E intorno a questo, qua c'è mitologia, qua c'è antropologia, qua c'è tutto un discorso collegato alla ritualità, c'è tutto un discorso collegato al culto proprio degli alberi e soprattutto alla sacralità, perché quest'albero è carico di forze sacre, dove in un momento particolare dell'anno, prima che questa pianta in primavera, nel momento in cui c'è questo ricaccio di foglie, avviene questo rito, praticamente avviene, è un rito propiziatorio, ultimamente lo fanno passare come matrimonio degli alberi, ma matrimonio non è, perché voi capite bene che gli alberi non si sposano né si possono sposare. Questo perché ad Accettura e fra i centri dove avvengono questi riti è uno di questi 12 o 13 paesi dove avviene questo. Altro rito simile è a Pietrapertosa, Oliveto Lucano, Castel Saraceno, insomma la Basilicata è tutta piena di questi miti e di questi riti. È presente questo mito ancora in Germania, è presente a Monaco di Baviera, nel sud della Germania, è presente in Austria, è presente in Scandinavia ed è presente, forse la parte più meridionale nel sud d'Europa sarà proprio Accettura, forse in Spagna, nel sud della Spagna, su quel parallelo, forse quello è il punto più meridionale d'Europa dove avvengono, lì lo chiamano il Maio, la festa del Maio, molto simile, se non del tutto simile a quello che avviene ad Accettura, c'è cioè questa ritualità riferito all'albero. Che il dire? Suo libro in qualche modo, come dire, è più un approccio compilativo, diciamo, rispetto alla sua esperienza e la storia del paese, della sua ritualità, oppure lei ha in qualche modo anche una sua teoria, è un libro anche speculativo in qualche modo? No, io ho voluto, in un primo momento ho parlato dell'albero in generale, per poi passare questo discorso ai boschi in particolare, ho dovuto parlare in senso più generale degli alberi per presentare questo libro come una sorta di oroscopo degli alberi. L'oroscopo degli alberi non l'ho mica inventato io, i Celti molto prima di me parlavano di oroscopi, ma questo tema riguardante questa astrologia, no? È uno dei tanti aspetti per incuriosire il lettore. Parlando del tuo albero, magari ti avvicini al mondo degli alberi per un primo approccio, poi una volta riconosciuto il tuo albero, capisci bene dove vive, se forma boschi misti, boschi puri, se è presente nella tua zona, nella tua città o meno, insomma. Poi ho parlato anche di psicologia. Una psicoterapeuta, Evi Crotti, parla di un disegno dell'albero dove lei dice che disegnami un albero e ti dirò chi sei. Dal disegno lei riesce ad individuare l'indole della persona, se ha dei problemi o meno. Ma ancora di più, se lo stesso disegno viene analizzato da uno psichiatra, questo riesce ad individuare dall'indagine sulla personalità. Uno psichiatra invece riesce a capire se la persona che sta indagando è affetta da una schizofrenia o meno. Quindi, l'uomo si è servito degli alberi proprio è stato forse il primo medicamento naturale che ha trovato. Quindi qua si parla di farmacologia, si parla di farmacognosia, per essere più preciso, dove l'uomo, non avendo le farmacie, si è tagliato in bosco, l'uomo primitivo, e quindi si è dovuto coprire la ferita. Ebbene, l'ha fatto con la foglia di un albero, per proteggerla, per rinfrescare appunto la ferita, ed ha capito che quella foglia e non altre foglie gli faceva bene su quella ferita, quindi ha dovuto sostituire quella foglia, quindi ha capito che in qualche modo poteva servirsi a mo' di cerotto. Effettivamente, ora che mi ci fa pensare in delle tecniche psicologiche che utilizzano l'immaginazione, cioè di riabilitazione attraverso l'immaginazione, l'albero di solito è la rappresentazione dell'io, del sé, è proprio ciò su cui, diciamo, viene chiesto al paziente in qualche modo di proiettare un'immagine di se stesso, della propria identità, attraverso l'immaginazione dell'albero proprio. Le volevo chiedere invece se le va di venire proprio invece nello specifico di qui, di Accettura, insomma, no? Prima lei diceva qui il bosco è tutto, no? È tutto il nostro mondo, è tutto ciò che abbiamo. Ci può spiegare meglio questa Sì, mi posso affermazione? spiegare benissimo, perché per me che sono un forestale e qui ad Accettura queste latitudini, queste altitudine, non si può praticare tanto l'agricoltura, per cui a 800-1000 metri capite bene che è difficile Certo. lavorare il terreno, i terreni non sono acclivi, le pendenze sono quelle che sono, non sono terreni fertili per cui non ci possono dare determinate rese. Praticamente più che di agricoltura noi dovremmo parlare di selvicoltura, cioè di curare il bosco, curare le piante che abbiamo, non tanto curare a livello agricolo, piantare delle piante. Il grano possiamo fare, ma con delle rese ridicole rispetto a quello che avviene a Capitanata, a Foggia o quello che viene nel tavoliere delle Puglie. È difficile qualsiasi tipo di coltura a questa altitudine, ecco. E Per questo è molto cui chiaro. ecco perché dicevo che noi siamo legati al bosco, perché c'è questo rapporto che non è un rapporto agricolo, ma è più un rapporto silvicolo. C'è anche una fortissima presenza di animali selvatici in questo territorio, almeno a quanto sembra a noi. Abbiamo incontrato istrici, volpi. Buche, chiaro. hanno interrotto il nostro lavoro. Mucche che oggi si sono sedute sulla, non selvatiche, però abbastanza educate, però si sono sedute sulla strada senza farci passare. Abbiamo incontrato anche un branco di cinghiali e oggi un ragazzo di qui di Accettura, Giuseppe, ci ha fatto vedere un video di un paese, non Accettura ma un altro paese, dove addirittura c'erano dei lupi che erano arrivati vicinissimi al centro abitato. Insomma, anche per me che vengo da una zona dove gli animali selvatici sono tanti, in Umbria, comunque qui la presenza è ancora più forte. Sì, da noi questi animali selvatici, anche così come stavate dicendo del cinghiale, il cinghiale non è il cinghiale vero, quello che c'era prima 50 o 100 anni fa, il Sus scrofa. È stato reintrodotto questo cinghiale dai cacciatori o da qualche associazione di cacciatori, quindi è stato per ripopolare questi cinghiali e qui è avvenuto quello che è avvenuto, nel senso che questo cinghiale che hanno introdotto è più vicino al maiale che al cinghiale, per cui si riproduce in una maniera abnorme, partorisce due volte e mezzo l'anno, quindi alleva una scrofa, è capace di allevare anche 8, 10, 12 maialini, latonzoli, e questo poi crea danni, questo squilibrio crea danni in agricoltura, quel poco di agricoltura che c'è, e crea problemi perché il cinghiale non ha nemici diretti se non il lupo, ma i lupi sono talmente pochi, non li attaccano, non li aggrediscono, e quindi questo è il vero problema del cinghiale rapportato a tutti quanti gli altri animali, alla volpe, al tasso, alla lontra che c'è ed è stata riscontrata sul Basento. Insomma, ci sono parecchi animali selvatici all'interno del parco. Senta, il cinghiale è un problema. Cambiando, diciamo, leggermente argomento, io ero anche curioso di chiedere a lei, che comunque ha passato, insomma, è cresciuto qui, è nato qui, ha passato buona parte della sua vita qui come lavorativa ed è anche comunque un uomo di cultura, no? Di cultura, non di cultura. E spesso, insomma, in questi pochi giorni da quando siamo arrivati, ci confrontiamo spesso con i discorsi delle persone con un momento che sembra forse critico, potremmo dire, o comunque problematico della vita di questi paesi. Le persone tendono a dire i giovani se ne vanno, i paesi si spopolano, si sente un po' quest'aria di, come dire, di preoccupazione per il fatto che le persone se ne vanno in qualche modo, soprattutto i giovani. Lei che cosa pensa di questo fenomeno? Come lo vede? E cosa pensa che sia auspicabile, diciamo, per il futuro della comunità di Accettura? Bella domanda. I paesi si spopolano, ma la Lucania tutta è spopolata. Basti pensare che tutta la Basilicata, gli abitanti sono poco più o poco meno di 550.000 persone, davvero pochi, su un territorio vastissimo, grande quanto l'Umbria o quanto l'Abruzzo come estensione, come territorio, è sparso su 130-131 comuni, quindi immaginatevi dei comuni come Cirigliano con 200-300 abitanti, o come Oliveto, o come Campomaggiore, come Accettura, dove la natalità è bassissima, e quindi da qui a io non vedo futuro per questo paese, perché i miei figli studiano fuori e difficilmente ritorneranno qui ad Accettura, ma seguendo questo processo, questo paese ha 20 anni di vita, sì e no, perché muoiono 30-40 persone all'anno, ne nascono 7 o 8, quindi immaginatevi un po' questo ricambio generazionale che può esserci. Da qui a 20 anni saremo 300 persone anche qui, quindi diventerà difficile vivere, sopravvivere in queste comunità, con tutti quanti questi problemi che ci sono, i professionisti non ce ne sono, medici non ce ne saranno. Pensate un po' quanto sia complicato vivere ad Acetura, i prezzi sono quelli che sono, perché comunque le derrate, le riserve le devi portare qui. Per il fatto dell'agricoltura noi non produciamo niente, perché non possiamo produrre nulla e deve venire da fuori quello che mangiamo. Possiamo produrre il legno, ma non penso che possiamo vivere di legno, con legno dei boschi, ecco. L'economia locale come si sostenta principalmente? L'economia locale si sostenta qui perché c'è, ecco, ritorniamo al fatto del bosco, ci sono degli operai forestali, ci saranno un centinaio di operai forestali, c'è il terziario, c'è, che cosa c'è più, pochissimi professionisti, e la gente non può sopravvivere solo e soltanto di questo, ecco. Certo, quindi lei lo vede in qualche modo come un processo inarrestabile che non è auspicabile cercare di contrastarlo in qualche modo, bisogna assecondarlo. O assecondarlo, oppure così come hanno fatto in altri centri qua vicino, credo a, adesso mi sfugge il paese, dove hanno venduto delle case a un euro per far sì che questa gente comprasse queste case. Le persone che vengono da fuori comprano teoricamente una casa ad un euro, qua ci sono molte case vuote, molte case sfitte, case abbandonate, con altre problematiche. Per cui offrire queste case ad un euro, si potrebbe ripopolare forse il paese e si potrebbe incentivare, si potrebbe ripartire con questo discorso, ma lo vedo difficile, perché ci vuole una volontà politica, ci vuole un impegno serio in questa direzione. Chi lo può fare se non la politica, o se non gli uomini che lo devono poi proporre e attuare questo? Allora, io prima di salutare Antonio avrei così un'ultima curiosità, diciamo un'ultima domanda. Ritornando ai riti, diciamo, no? Per noi che veniamo da fuori, non li conosciamo tanto, in qualche modo ci parlano di una, insomma, anche questa che lei chiamava dendrolatria prima, no? Cioè qualcosa che è legato a un mondo, a una spiritualità forse più pagana che cristiana, almeno come radici, insomma, no? Però in qualche modo sono poi stati inseriti all'interno di un contesto, di un orizzonte simbolico di tipo cristiano, ci sembra di capire, cioè la festa avviene il giorno di un santo. Sì, perché questo che avviene a San Giuliano, si ha notizia qualche decennio fa, anche di più, è stato festeggiato il duecentenario della festa di San Giuliano. Quindi San Giuliano è qui da 200 anni, quindi questa festa, io credo, non ho riscontri, non sono uno storico, per cui posso solo immaginarmi che anche 200-250 anni fa questa festa già si faceva, quindi è stata attribuita per volere della Chiesa al mondo religioso, è stata poi passata a San Giuliano, quindi se ne è impossessata la Chiesa. Così come in tutti gli altri comuni è avvenuto questo, ad Acetura e San Giuliano, a Pietrapertosa e Sant'Antonio, ed in altri, Sant'Antonio la fa da padrona, ci sono 7-8 feste tutte quante simili, fatte in onore di Sant'Antonio, ma questo popolo lucano, questo popolo che viene dagli enotri addirittura, si pensa che avesse queste radici, queste feste le faceva appunto anche prima dell'avvento della Chiesa. La stessa Stonehenge che parlavamo prima durante la prima parte, quando vi presentavo il territorio di Acetura, questa Stonehenge risale al III-IV secolo avanti Cristo. Questi menhir che fanno riferimento agli equinozi, parliamo di terzo, quarto, quinto secolo avanti Cristo, quindi l'uomo abitava già questi posti, quindi Acetura se non c'era, ma c'erano queste colonie dove vivevano assieme questi uomini, a Montecroccia, a Tempa Castria, dove c'erano queste popolazioni che vivevano lì, quindi anche senza avere un comune, non c'erano ancora le municipalità, ma questi vivevano su questo territorio e l'uomo è tornato ad abitare dove già abitava prima. Quindi questi territori erano già abitati chissà quanto tempo prima. Ecco. Io a questo punto ringrazio di cuore Antonio De Bona e aspettiamo a questo punto la seconda edizione del suo libro Alberologia, che consigliamo a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici. Tu Giuseppe sei proprio di Accettura? Nato. Sì, sono di Accettura. Che fai, lavori, studi? No. Ho finito di studiare quest'anno a giugno, ho fatto un'esperienza lavorativa in una fabbrica qui a Titoscalo, però adesso non sto lavorando. Ti sei stufato della fabbrica o...? No, a dire il vero era un lavoro piacevole, dai. O meglio, piacevole perché non è stanchevole. Allo stesso tempo brutto perché, tra virgolette, lì dentro sei un robot. Tu entri lì, inizi il turno a lavorare, fai per 8 ore sempre la stessa cosa. Sei un robot lì dentro. Che tipo di fabbrica era che si produceva? Metalmeccanico. Facevamo pezzi per la Fiat, tipo freni... che so, ammortizzatori, supporti, sottoserbatoio. Ma qui ad Accettura ci stanno un po' di giovani ancora, dei ragazzi, ragazze, così, o sì, pochi? Sì. Ci stanno ancora? Né pochi né tanti, ma... Ma ci stanno anche che vogliono rimanere lì o vogliono andare via la maggior parte? Sì, ci sono. Tu vorresti restare o andare via? No, restare. Tu vuoi restare? Sì. Ok. Stai bene comunque? Sì. Ti piace? Sì. Ti piace vivere qua? E com'è? Cioè, come mai ti trovi così bene? Mi trovo bene perché sono uno spirito libero. Non amo stare a casa a guardare la TV sul divano. No, io come mi alzo devo uscire di casa. Poi vedrò in seguito cosa fare, ma appena sveglio esco, poi torno per pranzo, finisco di pranzare e via di nuovo. E qui, come dire, cioè in questo luogo, no? Comunque un comune piccolo, tanta natura intorno, foresta, così come si esprime la tua libertà in un posto così? E come si esprime? Anche facendo questo. Sei molto nella natura, molto all'aria aperta. Sì. Un posto al chiuso non mi piacerebbe tanto. Quanti anni c'hai te adesso? 19. 19? Beh, sei giovanissimo, il futuro è tuo, insomma. Quindi se tu vorrai rimanere ad Accettura sarà tuo. Sì, voglio rimanere anche perché io ho avuto mio padre che per 12-13 anni ha lavorato in Veneto. In Veneto? E ha avuto l'anno scorso il trasferimento e adesso si trova a Matera. Quindi se vorrei andarmene, me ne sarei andato già in passato. Certo. C'hai qualche programma, qualche progetto per il futuro? No. Ora no? Non sono un tipo che fa progetti. Ok. Preferisci vivere libero, sì, all'aria aperta. Tu ci partecipi quando fate il rito a Pentecoste, cioè sì. Tu lo porti l'albero dalla foresta in paese, sei uno di quelli che lo portano. Anche il vino, a spalle. Soprattutto il vino. Comunque è buono il vino da ste parti. No? Quello è il carburante. È buono. Se non hai il vino non te li fai 15-20 km con un albero addosso. No, e poi a piedi, tra l'altro. Cioè, vede un vino rosso ottimo da queste parti. Lo so. Te lo dico io che comunque pure dalle parti mie sono famose per il vino, comunque in Umbria. E ci stanno anche cose simili, perché non so se mi hai sentito parlare della Corsa dei Ceri a Gubbio, per dire, lì non è in mezzo a una foresta, è in città, però si portano a spalla dei ceri di legno alti come un albero praticamente, che sono dei santi, sono i tre santi dei tre rioni della città e vengono portati proprio a mano dalle persone. Servono decine di persone per portarne ognuno, infatti ogni 50-100 metri si dà in cambio tutta la squadra e praticamente deve partecipare tutta la città per riuscire a portarli Sì. tutti e tre. È una cosa che coinvolge tipo 10.000 persone ogni anno. Stanno tutto l'anno praticamente a organizzarla e Ad a aspettare. prepararla, serve una collaborazione di tutti, proprio di tutta la città. È molto bella, è veramente una cosa molto potente da vedere. Bene, bene. Ci toccherà tornare in primavera, dai. Sì, alla festa dovete esserci. Perché se a voi piace già adesso questo posto che non è altro che natura e con i suoni della natura stessa, ecco, non c'è niente che non sia naturale. E figuriamoci come rimarrete quando vedrete la festa. Poi durante la festa si canta, si Si balla, fa di tutto, si fa di tutto. soprattutto bere vino. Soprattutto bere vino. Si suona, ci sono Sì, delle sì. Ma musiche che usate di solito. c'è qualcosa che per il tuo paese, per accettura, vorresti ci fosse, che non c'è mai stato fino ad oggi, che potrebbe migliorare, non lo so. Direi di migliorare uno un po' la viabilità, perché comunque, come hai visto, è un po' tragica. E due, migliorare un po' la sanità. Non che non sia giusta, ma noi l'ospedale più vicino ce l'abbiamo a Potenza o Matera. Quindi nel caso Sì. Oppure elicottero, se c'è un caso molto. O l'elicottero, vabbè, l'ambulanza l'abbiamo sia a San Mauro che a Stigliano, che sono uno a 18 km e l'altro 13-14, quindi non è molto distante. Però se ci fosse invece dell'ambulanza in uno di questi due paesi un ospedale, anche che faccia, che so, solo da pronto soccorso, diciamo che se sia qualcosa di grave, almeno che so, riescono a rianimarti, Ah certo, riescono, sì. poi ti portano in ospedale. E per voi giovani? Per noi giovani, per trovare un lavoro devi muoverti, perché qui in questi paesi è poco il lavoro che trovi. Non hai fabbriche, non hai. Quindi se devi lavorare devi fare un lavoro manuale. Lavoro manuale tipo, che so, muratore, elettricista, idraulico, meccanico, ma non, più di questo non puoi.